Cantine di Franciacorta. Un saluto dalla Franciacorta e da Adro, siamo ospiti dell'azienda Ricci Curbastro, famiglia presente in zona da ben 12 secoli, l'etichetta più vecchia conservata del 1885. 200.000 bottiglie all'anno, circa la metà bollicine, per un'azienda tradizionale ma moderna, attenta all'ambiente che guarda all'estero. Riccardo Ricci Curbastro. Noi abbiamo sempre approcciato il mercato estero come quello nazionale, quindi con grande attenzione. Oggi l'estero rappresenta il 35% della nostra esportazione e stiamo investendo moltissimo ancora sull'estero, con iniziative specifiche. Abbiamo appena aperto una lounge Ricci Curbastro a Francoforte, ma anche con investimenti in personale. Quindi attenzione ai mercati esteri, perché è lì che crescerà la Franciacorta nei prossimi anni. Alla prossima tappa. Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.